in primo piano. Buongiorno, buongiorno a tutti. Il discorso di Obama, fatto ieri all'Università del Cairo, Obama oggi prosegue il suo viaggio e si sposterà in Germania, a dire il vero è già arrivato ieri sera a Dresda, ma anche le ultime battute della campagna elettorale, una campagna elettorale che mantiene toni sempre molto accesi e polemiche sempre più violente. Tra l'altro vedremo più avanti che ci sono anche le prime indicazioni sul voto reale che in alcuni paesi si è già svolto, vedi la Danimarca, vedi la Gran Bretagna, anche se da lì non abbiamo indicazioni. E poi ancora sul fronte economico i giornali danno abbastanza rilievo all'aggiornamento al ribasso delle stime sul PIL in Europa e la conferma che la ripresa non ritornerà prima della metà del 2010. Ma vediamo il discorso di Obama. C'era molta attesa, ne abbiamo parlato anche parecchio nei giorni scorsi e direi che quasi tutti i giornali, con pochissime eccezioni, dedicano a questo tema l'apertura. Lo fa ad esempio il Corriere della Sera, USA e Islam contro gli estremismi, è un virgolettato, quindi una frase tratta dal discorso di Obama al Cairo. Basta sospetti, adesso serve un nuovo inizio. Ma anche Liberazione, provaci sul serio Obama, oppure ancora il manifesto, il profeta Hussein, sapete che Hussein è il secondo nome di Barack Obama, insomma tutti i giornali, la stampa, la Repubblica, Obama all'Islam è l'ora della pace. A questo tema dedica il proprio editoriale anche il Sole 24 Ore, l'editoriale è scritto dal direttore Gianni Riotta. Vi leggo alcune righe di questo articolo. I milioni di musulmani in ascolto hanno capito che l'America cambia, non per l'elogio del Corano, non per l'infanzia di Obama sotto i minareti e neppure per l'affettuosa citazione del papà musulmano o del proprio nome completo, appunto Barack Hussein Obama. Il segnale nitido viene dalle 6.000 parole dell'appello. Mai è citata la parola terrorism, la maledizione che dall'11 settembre 2001 strega America e Islam. Obama ha ricordato che il suo paese ha commesso errori, ma ha chiamato tutti ad andare avanti senza il mito dei complotti. Un discorso atteso da 1 miliardo di islamici che ha parlato anche all'America profonda e a Israele. Ha chiarito che senza pace tra Israele e Palestina, come ha chiamato lo Stato da creare nel West Bank, non c'è fine del risentimento, che Hamas ha consenso ma deve uscire dal fondamentalismo che ebrei e arabi hanno entrambi troppo sofferto. L'Iran ha diritto al nucleare civile, ma la corsa all'atomica in Medio Oriente è tragica. Obama non ha dimenticato il karma e dei falchi, senza democrazia non c'è pace. Chiamando gli egiziani a non dimenticarlo. Lo ha declinato però con umanità, condannando torture e Guantanamo, e ha concluso che la tradizione può coesistere con lo sviluppo economico, tecnologico, mercato e web. Direi che questo articolo sintetizza benissimo, questo commento sintetizza benissimo tutti i passaggi fondamentali affrontati da Obama nel suo discorso. Una lettura, insomma, leggermente diversa, certamente più critica, arriva per esempio però dal Foglio. Cedimento atomico è il titolo di apertura del quotidiano diretto da Giuliano Ferrara. Dal Cairo Obama non ripete il no alla bomba iraniana, il suo centro studi ci spiega perché. Un articolo poi illustra i motivi di questa scelta. Poi ancora sulla reazione di Israele, un ministro israeliano dice parole dure contro Obama prima del richiamo al silenzio di Netanyahu. Sulla Repubblica vi segnalo una cosa secondo me molto simpatica che riguarda sempre il discorso di Obama. Ci scrive, abbiamo letto di Gianni Riotta, che Obama non ha mai citato la parola terrorismo. È interessante andare a vedere quali sono state le parole chiave del discorso pronunciato da Obama. Quindi abbiamo detto terrorismo, parola mai nominata. Però Obama ha detto 20 volte la parola pace, 6 volte la parola guerra, 18 volte la parola diritti, 11 volte la parola religione, 44 volte la parola musulmani, 24 volte la parola islam, 4 volte la parola Corano e una volta la parola Bibbia. Sempre sul tema, dalla stampa, volevo leggervi alcuni passaggi della rubrica che ha tenuto in questi giorni sul Quotidiano di Torino lo scrittore Khaled Al-Khamisi. In questi giorni, forse lo abbiamo anche letto ieri o l'altro ieri, Al-Khamisi insomma dà una lettura così abbastanza disincantata, disillusa di questo nuovo tentativo di rappacificazione portato avanti da Obama. E l'articolo di oggi insomma conferma un pochino questa lettura diciamo un po' più disincantata, ecco. Per esempio, Obama ha chiesto ai giovani di non restare prigionieri del passato, di forgiare un futuro dove regni la pace, e con questo, credo, ha chiesto di dimenticare la storia dell'umanità per rivolgersi al mondo fantastico di Disneyland. E poi ancora alla fine dell'articolo. Il presidente ha insistito sul concetto di fratellanza e sulla divisione delle responsabilità per poter costruire un futuro migliore. Tutti sono rimasti entusiasmi delle sue parole e tanto hanno applaudito e sorriso. Obama è riuscito ad accontentare tutti. Credo che il suo discorso verrà considerato il miglior sermone religioso di quest'anno. Inshallah. E questo era Al-Khamisi sul quotidiano La Stampa. Dicevo, altro tema forte della giornata, la chiusura della campagna elettorale, in realtà le ultime battute della campagna elettorale. Anche a questo tema tutti i giornali dedicano moltissimo spazio. Vorrei cominciare da un bel lavoro che potete trovare sul Sole 24 Ore, una simulazione fatta da Roberto Dalimonte su cosa potrebbe succedere in quei comuni e in quelle province. Si tratta complessivamente, penso, di 4.500 comuni e 70 e rotte province in cui si andrà appunto a votare domani e domenica. Molto interessante l'analisi perché applicando i dati reali delle elezioni politiche del 2008 si produrrebbe un vero e proprio ribaltone, nel senso che 24 comuni capoluogo che nel 2008 diciamo avevano visto prevalere la sinistra andranno in realtà di questi 24 solo 15 resteranno al PD, mentre il centrodestra, che ne aveva 6, passerebbe a 15. Stesso rapporto nelle province: le province che sono attualmente al centro-sinistra sono 51, si dimezzerebbero, diventerebbero 25, e tra le 9 che sono attualmente alla destra ne passerebbero in realtà 37. Quindi molto interessante questa analisi di Dalimonte. Al tema elezioni dedica anche la sua foto principale il giornale. PDL più vicino al 45% sarà trionfo. È la chiusura della campagna elettorale ieri a Milano di Berlusconi e Bossi. Ancora dal Corriere della Sera, Berlusconi: Milano sembra una città africana, una delle frasi pronunciate ieri dal Presidente del Consiglio, ovazione di 2000 al comizio finale con Bossi, e poi anche un riferimento alla nota vicenda dei voli di Stato. C'è un mandante, ma sarò assolto. Interessante anche vedere sui giornali alcuni retroscena, ad esempio quello dei rapporti reali tra la Lega e il PDL. Ieri grande intesa, grandi abbracci tra Bossi e Berlusconi, ma alcuni giornali si chiedono: c'è davvero questo grande feeling tra la Lega e il PDL? E ad esempio La Stampa ci propone un retroscena molto interessante sui reali rapporti tra i due partiti. Il titolo dell'articolo è La strategia di Bossi. Parlano di alleanza di ferro. Si promettono lealtà quasi eterna. Berlusconi addirittura svela di avere un accordo con Bossi. Se uno lascia la politica, l'altro fa lo stesso. Il giorno prima delle elezioni europee, delle amministrative, sembrano quasi i gemelli siamesi della politica italiana. Ma l'impressione è che il Premier voglia solo rassicurare il suo partito di fronte al possibile exploit della Lega nelle urne. E quando il Cavaliere dice che il Veneto potrebbe andare al carroccio, nel PDL sono convinti che questo sia solo un modo per frenare gli appetiti di Umberto Bossi. Il carroccio infatti punta al colpo grosso delle regionali 2010, cioè a ottenere la presidenza di Lombardia e Veneto, oppure di Veneto e Piemonte. Insomma, non una, ma due grandi regioni del nord. Insomma, questo lo vedremo nei prossimi mesi, visto che parliamo già delle prossime elezioni amministrative. Devo dire però che questo tema è ripreso anche da Gianluigi Paragone sulla prima pagina di Libero, che in fondo si pone proprio la stessa domanda. Che cosa c'è in gioco nel nuovo patto Bossi-Berlusconi? Questo è il titolo dell'articolo di Paragone. Sul fronte invece PD, ieri l'affondo finale di Franceschini, leggo dal Corriere della Sera, servono serietà e moralità. Ieri il comizio a Bologna è anche registrato sul giornale un appello di Veltroni: la destra crea un paese violento. Repubblica invece la butta sulla questione morale, Franceschini sfida sulla questione morale e però li attacca sui voli di Stato. La legge del principe è diversa da quella del popolo. Sempre sul Corriere della Sera, un tema che già ieri avevamo trovato sulle pagine di Repubblica: il problema dell'astensionismo e di quanto ciò faccia paura al Partito Democratico. E c'è un'analisi di Renato Mannheimer che appunto sottolinea come l'astensione sia l'incubo del Partito Democratico, tanto che il Riformista titola a tutta pagina "Turiamoci il naso", quindi votiamo PD, invita il Riformista, anche con tutti i problemi che insomma in questa fase politica sono aperti. Chiuderei questa fase politica. Abbiamo ancora qualche minuto per vedere velocemente i temi più importanti economici della giornata. Direi senz'altro va registrato, e ad esempio ne dà notizia in prima pagina il Sole 24 Ore, ma anche altri quotidiani dedicano a questo tema ampio spazio, La Stampa, la Repubblica, sulla BCE che aggiorna le stime del PIL. Giù le stime del PIL, dice il Sole 24 Ore, meno 4,6%. Repubblica, Trichet, PIL sotto zero anche nel 2010. Però una nota positiva arriva da Repubblica: i consumi in Europa alzano la testa. Qual è in realtà la situazione? La situazione è che nel 2009 il PIL dovrebbe subire una contrazione, una diminuzione del 4,6%, mentre la ripresa economica non diventerà reale prima della metà del nuovo anno. Quindi per il 2010 le previsioni restano caute e oscillano tra un meno 1% e un meno 4, scusate, un meno 0,4%. Quindi in realtà anche il prossimo anno ci sarà una ripresa, ma secondo la BCE non sarà una ripresa fortissima. Sul Sole 24 Ore segnalo anche una notizia certamente di interesse generale, perché è attesa a giorni, a ore direi, la proroga dei pagamenti legati al modello unico, quindi dichiarazione dei redditi. 20 giorni in più per i versamenti di unico, ma la proroga dei termini si applicherà solo ai soggetti che applicano gli studi di settore. Quindi per tutti i contribuenti che applicano gli studi di settore ci saranno 20 giorni di più per pagare le imposte. Vi segnalerei anche altri due temi che ho trovato sul giornale e mi sembrano molto interessanti. Da un lato il Corriere della Sera dedica al terremoto di Abruzzo un'inchiesta sulla ricostruzione a 2 mesi dal sisma. Quindi la ricostruzione 2 mesi dopo la scossa, via ai cantieri ma niente soldi agli sfollati. Quindi in realtà, ci dice il Corriere, sono già stati aggiudicati appalti per 95 milioni di euro, però diciamo, i contributi che dovevano servire ai cittadini che hanno perso la propria casa ancora non stanno arrivando. Su un tema ovviamente diverso, ma affine perché riguarda in qualche modo l'edilizia, segnalo anche un bel lavoro fatto oggi dal Sole 24 Ore che riguarda il piano casa, cioè la possibilità di ampliare, abbattere, ricostruire alcuni immobili in particolari. Il Sole 24 Ore fa un aggiornamento sulle regioni che hanno già adottato una propria legge e quindi ci spiega regione per regione che cosa è possibile fare. Inoltre, in un'altra pagina sono stati intervistati alcuni architetti famosi, quindi Cucinella, Botticini, che danno una loro lettura, una loro interpretazione sulle possibilità di riqualificare il patrimonio edilizio. Io ho concluso, vi ringrazio, passo la parola ad Alessandro Milan.